sogno, ritorno da te. Profondo è il mare che ricorda il tempo che di qua spumeggia mentre ci vola. A volte in sogno ritorno da te. Ho bisogno almeno che sappia che sempre sarai qua e sorride mentre ci vola. Fermava il tram, sentivo il buon odore della città, guardavo l'orologio.